Riflessioni da Marte. Quanti luoghi comuni si possono sfatare, vi assicuro, scrutando il globo terracqueo da quassù, da Marte? Per esempio, il luogo comune secondo il quale con la crisi cresce la disuguaglianza, con la crisi si allarga la forbice tra chi ha di più e chi ha di meno. Non è vero niente, in realtà. La crisi rende tutti uguali, mette democraticamente tutti nella stessa barca. Ne avete avuto una prova lampante questa settimana col povero ex ministro Brunetta Renato, che ha avuto il coraggio di confessare senza inutili pudori, senza ipocrite vergogne, che non ce la fa a pagare l'IMU e che ha dovuto chiedere un prestito in banca. Del resto, poveretto, deve pagare per 4 case a Venezia, ma lui con modestia dice no, ne ho una sola, poi un'altra un'eredità. E poi immobili a Ravello, a Roma e poi in provincia di Perugia, è un rustico acquistato alle Cinque Terre. Vorrei vedere voi al posto suo, se non vi lamentereste a vostra volta per la cifra da immolare all'IMU, e che diamine, insomma, cercate un po' di comprensione. E se il povero Brunetta non ha i soldi per pagare l'IMU, vuol proprio dire che siamo alla frutta. Sì, nel senso che ora parliamo di frutta. Dovete sapere infatti che la frutta fa bene, anche in periodi di crisi, anzi, a maggior ragione bisogna essere vitaminizzati e stare in salute per affrontare questo lungo periodo difficile. E consapevole di ciò, che cosa ha fatto il Ministero delle Politiche Agricole? In tempi di spending review, che scusate ma mi evoca sempre Parlami d'amore Mario, per persuadere i bambini delle scuole di quanto sia fondamentale consumare la frutta, il Ministero delle Politiche Agricole ha speso la bellezza di 17 milioni di euro. Se quindi a questo punto vedete i vostri bimbi che a casa sbranano famelici quintali di banane, arance, ribes rosso e uva spina, sapete perché e quanto denaro ci è voluto. Non sono stati invece tanto persuasi dell'importanza della frutta i consiglieri lombardi, che secondo una nuova inchiesta hanno speso vagonate di soldi pubblici per comprarsi non la frutta, ma lecca lecca, aperitivi da 800 euro, cene pantagrueliche senza neppure una banana. Pensate che un consigliere leghista della regione Lombardia, per esempio, ha speso centinaia di euro in lemon soda, pizzette, cannoli, ciambelle, torta sbrisolona, tutte cose non molto sane, e salsicce di Norimberga, che diciamo fa anche cultura, per carità. Pensando a Norimberga, infatti, a uno in genere viene in mente giusto il processo di Norimberga, e invece con questi fatti e misfatti si impara anche che a Norimberga ci sono anche delle ottime salsicce, come negarlo. E poi un altro esponente leghista della regione avrebbe speso nel 2011 15.000 euro per comprare dolci in pasticceria e fare colazione con le brioche, 15.000 euro in pasticceria. Ma del resto, come biasimarlo? La vita è così amara. Me fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, me sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a far in maniera de farmi un sogno a prima sera.